Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. Bugün İtabella'ya 4 Nisan 1951 Roma doğumlu şarkıcı, söz yazarı, müzisyen Francesco De Gregori'nin şarkıları konuk olacak. İtalyan şarkı yazarları, bestecileri arasında en önemli ve popülerlerinden biri olan De Gregori'nin şarkılarında pek çok çeşitli müzikal seslerle karşılaşırız. Rock'tan cantatorelle'ye kadar uzanan ve bazen halk müziğine de göndermeler yapan parçaları var. Şarkı sözlerinde ise metaforun çok önemli ve geniş bir kullanımı var. Genelde hemen anlaşılmayan, oldukça edebi, şiirsel, etik ve çok politik geçişlerle dolu olan, güncel konulardan bahseden, tarihle ilgili de hatırlatmalar yapan şarkılar yapıyordu. Ve hala yapıyor. Şimdi programa da tam da böyle iki parçayla başlayacağız. Önce çelişkiler ağına hapsolmuş bir adamın karmakarışık portresini çizen Pablo'yu dinleyeceğiz. Pablo, karısını başka kadınlarla, şarapla ve yeşil İsviçre'yle aldatan bir adam ve bir işçi ve bir gün bir iskeleden düşerek ölüyor. Böylece arkadaşları ona arkasından slogan gibi bir ağıt yakıyor ve diyor ki Pablo'yu öldürdüler, Pablo yaşıyor. Ve bunu da şarkı sırasında duyuyorsunuz bolca. Ondan sonra da bir savaş karşıtı balat olan Generale'ye kulak veriyoruz. Mio padre seppellito un anno fa, nessuno più coltivare la vite, verde rame sulle sue poche, poche unghie e troppi figli da cullare. E il treno io l'ho preso, fatto bene, pago sulla mia valigia, non ce n'era, solo un po' d'amore la teneva insieme, solo un po' di rancore la teneva insieme. Il collega spagnolo non sente, non vede, ma parla del suo gallo da battaglia e la latteria diventa terra. Prima parlava strano e io non lo capivo, però il pane con lui lo dividevo e il padrone non sembrava poi cattivo. Hanno pagato Pablo, Pablo è vivo, hanno pagato Pablo, Pablo è vivo, hanno pagato Pablo, Pablo è vivo, hanno pagato Pablo, Pablo è vivo. Con le mani io posso fare castelli, costruire autostrade e parlare con Pablo. Lui conosce le donne e tradisce la moglie, con le donne ed il vino e la Svizzera verde. E se un giorno è caduto per caso pensando al suo gallo o alla moglie ingrassata come la foto. Prima parlava strano e io non lo capivo, però il fumo con lui lo dividevo e il padrone non sembrava poi cattivo. Pablo, Pablo è vivo, hanno ammazzato Pablo, Pablo è vivo, hanno ammazzato Pablo. Hanno ammazzato Pablo. Ci sta la notte, crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina, di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati, e non ancora tornati. Dietro la stazione lo vedi il treno che portava al sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. Generale, la guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Generale, queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore. We'll be right back. Pablo ve Generali'ye kulak verdik. Giorgio adlı kütüphaneci bir babanın ve Rita adında bir edebiyat öğretmeninin oğlu olarak Roma'da doğan Francesco de Gregori, ismini 1945'te öldürülen bir Alpini subayı olan amcasının anısına alıyor. Babasının mesleği gereği Pescara'da büyüyor ama sonra yeniden Roma'ya dönüyorlar. Klasik lisede eğitimine devam ettirdikten sonra üniversiteye başlıyor ama tezini vermediği için mezun olmuyor. 1966 yılında babası ve 7 yaş daha büyük olan kardeşi Luigi ile birlikte Floransa'daki sel felaketine yardıma gidiyor. Bunu da kısaca bir anlatmak istiyorum. 4 Kasım 1966'da Floransa'da bulunan Arno Nehri aşırı yağıştan dolayı taşıyor ve tüm Floransa tonlarca su ve çamur altında kalıyor. Elbette Uffizi Müzesi de bu felaketten çok ciddi bir şekilde etkileniyor. Pek çok eser tamir edilmeyecek şekilde tahrip oluyor. Sular çekildikten sonra şehri çamurdan temizlemek için dünyanın ve İtalya'nın her yerinden binlerce gönüllü geliyor Floransa'ya ve bu sanat eserlerini kurtarmaya, kurutmaya ve onarmaya yardım ediyorlar. Bu kişilere de Angeli del Fango, yani çamur melekleri deniyor. İşte bu çamur meleklerinden biri de o zamanki Francesco. 1966'da aynı zamanda gitar çalmaya da başlıyor ve öğrendiği ilk şarkı Celentano'nun Il ragazzo della Via Gluck adlı parçası oluyor. Halka açık ilk performansını da kardeşi sayesinde Folk Stüdyo'da yapıyor. Burada Caterina Bueno, Antonella Venditti, Giovanni Marunuzzi gibi pek çok müzisyenle de tanışma fırsatı buluyor. Hatta Marunuzzi ile de kısa bir flört yaşıyor. Biz şimdi o ta ne zamanlarda yaşanmış flörte, o romantik günlere atıfta bulunan Niente da Capire parçasına kulak verelim. Arkasından da 1975 yılından Il Signor Hood, şimdi Itabella'da. Le stelle sono tante, milioni di milioni, la luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida, seduto o non seduto faccio sempre la mia parte, con l'anima in riserva e il cuore che non parte. Però Giovanna io me la ricordo, ma è un ricordo che vale 10 lire e non c'è niente da capire. Mia moglie ha molti uomini, ognuno è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce, ha un cuore da fornaio e forse mi tradisce. Però Giovanna è stata la migliore, ma è un ricordo che vale 10 lire e non c'è niente da capire. Se tu fossi di ghiaccio ed io fossi di neve, che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale. Ma se i tuoi occhi fossero ciliegie, io non ci troverei niente da dire. Non c'è niente da capire. È troppo tempo, amore, che noi giochiamo a scacchi. Mi dicono che stai vincendo e ridono da matti. Ma io non lo sapevo che era una partita. Posso dartela vinta e tenermi la mia vita. Però se un giorno tornerai da queste parti, riportami i miei occhi e il tuo fucile. E non c'è niente da capire. il signor Hood era un galantuomo, sempre ispirato dal sole, con due pistole caricate a salve ed un canestro di parole. Con due pistole caricate a salve ed un canestro pieno di parole. E che fosse un bandito negare non si può, però non era il solo. E che fosse un bandito negare non si può. E sulla strada di Pescara venne assalito dai parenti ingordi e scaricò le sue pistole in aria e regalò le sue parole ai sordi. E scaricò le sue pistole in aria e regalò le sue parole ai sordi. E qualcuno ha pensato che fosse morto lì, però non era vero. E qualcuno ha giurato che fosse morto lì. Quando piove lo vedi sempre con le spalle al sole, con un canestro di parole nuove calpestare nuove aiuole. Con un canestro di parole nuove calpestare nuove aiuole. E tutti lo chiamavano signor Hood, ma il suo vero nome era Spina di Pesce. E tutti lo chiamavano signor Niente da capire ve il signor Hood radyonuzdaydı. 1971 yılında It etiketiyle bir deneme kaydı yapıyor ama bu çok da başarılı gitmiyor. Biraz bir ölü doğum oluyor ve unutuluyor. Kendi resmi çıkışından önce 72'de tek albümü olan Fruttüper Kagua için Capitolo Sei grubuyla bir işbirliği yapıyor. Dünya müzik sahnesinde ünlü olmadan hemen önce Paolo Pietrangeli tarafından Fellini'nin filminde başrol oynaması için öneriliyor ama Fellini daha uzun ve koyu saçlı olmayan birini aradığı için bu girişim de sonuçsuz kalıyor. 72'ye geldiğimizde De Gregori, Eduardo De Angeli ile birlikte bir işbirliğine başlıyor ve kendi ilk solo albümüne de isim verecek olan Alice Non La Sai yazıyor. Bu albüm içeriği nedeniyle eleştirmenler arasında çok tartışılıyor. De Gregori'yi kırılgan biri olarak görüyor insanlar ve narin ve hayalperest bir şekilde şarkı söylediğine dikkat çekiyorlar o dönemde. Zayıf ama aynı zamanda derin bir sesi olmasına karşın 20. yüzyıl hikayelerini hiç çekinmeden anlatıyor. Şimdi bu bahsi geçen şarkılara kulak verelim. Önce Alice Non La Sa, arkasından da De Gregori'nin 2. Dünya Savaşı sırasında insanların gerçek tepkilerini, o büyük tarih içindeki küçük hikayelerini anlattığı 1940, yani 1940, şimdi radyonuzda. Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano è lì, tranquilla, che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta. E Lily Marlene, bella più che mai,

soldati bevono birra e corteggiano donne francesi. Non è vero che siano diverse. Cosa importa se sono lontani dai cortili che li hanno cresciuti? Oramai questa terra è loro. E cantando attraversano il ponte che fra un poco faranno saltare. Ed il fiume li guarda passare. Alice non lo so ve 1940'ya kulak verdik. 1974 yılına geldiğimizde 11 parçanın tamamının kendi hayat verdiği basitçe Francesco de Gregori albümünü yayınlıyor. İsmini taşıyan albüm. Bu albüm kapağından dolayı La Pecora ya da Pecora albümü olarak da biliniyor. Şimdi bu albümden bir akustik parçayı dinleyeceğiz. Adı Bene. Oldukça fazla bir şekilde Leonard Cohen'i çağrıştıran bir parça ve ileriki dönemde de bir daha hiç çalmıyor. Hiçbir canlı performansta bu parçayı duymuyoruz. Arkasından da diğer yüzünden Cercanda Un Altro Egitto'ya kulak veriyoruz şimdi. Bene, se mi dici che ci trovi anche dei fiori in questa storia, sono tuoi. Ma è inutile cercarmi sotto il tavolo, ormai non ci sto più. Ho preso qualche treno, qualche nave o qualche sogno qualche tempo fa. Ricordo che giocavo coi tuoi occhi nella stanza e ti chiamavo mia. Ben oltre la coperta d'uncinetto c'era il soffio della tua pazzia. E allora la tua faccia vietnamita ricordava tutto quel che ho. E adesso puoi richiuderti nel bagno a commentare le mie poesie. Però stai attenta a tendermi la mano, perché il braccio non lo voglio più. Mia madre è sempre lì che si nasconde dietro i muri e non si trova mai. E i fiori nella vasca sono tutto quel che resta e quel che manca, tutto quel che hai. E puoi chiamarmi ancora amore mio. e qualche volta aspettami sul ponte, i miei amici sono tutti là, con lunghe sciarpe nere ed occhi chiari hanno scelto la semplicità. Se Luigi si sporge verso l'acqua sono solo fatti suoi. E ancora mille volte, mille anni ci scommetto, mi ringrazierai per quel sorriso ladro e per i giochi, i mille giochi che sapevi già. E ancora mi dirai che non vuoi essere cambiata, che ti piaci come sei. Però non mi confondere con niente, con nessuno, e vedrai niente, nessuno ti confonderà. Nemmeno l'innocenza nei miei occhi, ce n'è già meno di ieri, ma che male c'è. Le navi di Pierino erano carta di giornale, eppure guarda, sono andate via. Magari dove tu volevi andare ed io non ti ho portato mai. Ma puoi chiamarmi ancora, amore mio. Presto e mi chiamano alla finestra, mi dicono Francesco ti vogliono ammazzare, io domando chi, loro fanno cosa, insomma prendo tutto e come San Giuseppe mi trovo a rotolare per le scale, cercando un altro Egitto, di fuori tutto calmo. La strada era deserta, mi dico meno male, è tutto uno scherzetto. Sollevo gli occhi al cielo e vedo sopra un tetto mia madre inginocchiata in equilibrio su un camino. La strada adesso è piena di persone, mia madre è qui vicino. Un uomo proprio all'angolo, vestito da poeta, vende fotografie virate seppie. Ricordo della terra, prima della caduta, e al posto del posto dove va il francobollo, c'è un buco per appenderle dove, dico io, intorno al collo. E adesso per la strada la gente come un fiume, il terzo reparto accelera e controlla. Non c'è nessun motivo di essere nervosi, ti dicono agitando i loro sfollagenti. E io dico non può essere vero, e loro dicono non è più vero niente. Lontano, più lontano degli occhi del tramonto, mi domando come mai non ci sono i bambini. L'ufficiale uncinato che mi segue da tempo mi indica col dito qualcosa da guardare. le grandi gelaterie di lampone che fumano lente. I bambini sono tutti a giocare. Un amico d'infanzia, dopo questa canzone, mi ha detto è bellissima, è un incubo riuscito. Ma dimmi, sogni spesso le cose che hai scritto? Oppure le hai inventate solo per scandalizzarmi? Amore, amore, naviga via, devo ancora svegliarmi. Bene ve çarkanta un altro Egitto radyonuzdaydı. 1975 yılında Rimmel albümüyle çok büyük bir başarı yakaladı ve son 10 yılın en çok satan kayıtlarından biri olarak hafızalara yazılmıştı. Lucio Dalla ile birlikte yazdığı, az evvel dinlediğimiz, açılışta dinlediğimiz Pablo gibi şarkılar bu albümdendi. Albümde Renzo Zanobi de gitarla, gitar sololarıyla katkıda bulunmuştu. Aynı yıl Gregory, Zanobi'nin ilk albümü olan A Silvia'nın da prodüktörlüğünü üstlendi. Bu arada kendisi için unutulmaz bir deneyim olan anılarını anlatırken sık sık paylaştığı Fabrizio De Andrea ile de birlikte çalışmalara katıldı. Şimdi biz Rimmel albümünden önce Rimmel, arkasından da Piccola Mela'ya kulak veriyoruz. E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure. E cancello il tuo nome dalla mia facciata. E confondo i miei alibi e le tue ragioni. I miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco e un futuro invadente. Fossi stato un po' più giovane l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. Le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. O ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi o farli rimanere buoni amici come noi. Tanta voglia di vivere e dolce venere di Rimmel. Come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona. E quando io, senza capire, ho detto sì, hai detto è tutto quel che hai di me, è tutto quel che ho di te. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi, vada bene, di un colore solo. Li puoi nascondere o giocare con chi vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Tasca una piccola mela, mi metto in tasca una piccola mela. Ti portassero in piazza con chiodi e catene, se davvero non sei sincera. Del dottore una maestrina, la figlia del dottore è una maestrina e conosce a memoria tutti i libri di Omero, li ripassa tre volte la mattina. Mi metto in tasca un piccolo fiore, mi metto in tasca un piccolo fiore. Ti legassero stretta alla quercia più vecchia, se davvero non vuoi il mio cuore. La figlia del dottore sa cantare, la figlia del dottore sa cantare. E mi piace poi tanto quel suo modo di fare, forse un giorno faremo l'amore. Rimmel ve Piccola Mela radyonuzdaydı. Rimmel'i 1976 yılında yayınlanan Buffalo Bill albümü izlemiştir ki bu albümde de Dalla ile işbirliği devam etmektedir. Kapakta her ne kadar adı geçmese de gitarlarıyla albüme Ivan Graziani eşlik etmektedir. Bu albümde şimdi önce 70'lerdeki bir Noel Baba'yı öldüren iki gencin hikayesini biraz masalsı, mitlerle ve değerlerin yok edilmesine atfedilerek anlatılan L'Uccisione di Babbo Natale'yi dinleyelim. Arkasından da Sicilya kanalında bir Amerikan askerinin kullandığı uçağın düşüşünü anlatan Disastro Aereo sul Canale di Sicilia şimdi radyonuzda. Dolly del mare profondo, figlia di minatori, si leva le scarpe e cammina sull'erba insieme al figlio dei fiori. E fanno la solita strada fino al cadavere del grillo, la luna impaurita li guarda passare e le stelle sono punte di spillo. E e mentre le lancette camminano, i due si dividono il fungo e intanto mangiando ingannano il tempo, ma non dovranno ingannarlo a lungo. Infatti arriva Babbo Natale, carico di ferro e carbone, il figlio dei fiori lo uccide con un coltello e con un bastone. E Dolly gli pulisce le mani con una fetta di pane. Le nuvole passano dietro la luna e da lontano sta abbaiando un cane. E la neve comincia a cadere, la neve che cadeva sul prato, e in pochi minuti si sparse la voce che Babbo Natale era stato ammazzato. Così Dolly del mare profondo e il figlio dei fiori si danno la mano e tornano a casa dai genitori. Risulta peraltro evidente anche nel clima della distensione che un eventuale attacco ai paesi arabi vede l'Italia in prima posizione. Tutti sanno tutto dell'inizio, ma nessuno può parlare della fine. E questa è la storia dell'aereo perduto al largo delle coste tunisine. La fabbrica di vedove volava a 10.000 metri sulla terra siciliana. Il pilota controllava l'orizzonte, la visibilità era buona. Il pilota era un giovane ragazzo americano, ma faceva il soldato a Verona. E 10 chilometri sotto, ginestra e cemento a due passi dal mare e case popolari costruite sulla sabbia, nient'altro da segnalare. Solo la tomba di un giornalista, ancora difficile da ritrovare. E la fabbrica di vedove volava sola come un uccello da rapina. Era già più vicina, nel cielo soltanto una striscia di neve, di carta velina. Babbo Natale ve Disastro Aereo sul Canale de Sicilia radyonuzdaydı. Bugün şarkı sözlerinin zarafetine istinaden şarkı yazarlarının Fransız'da denen müzisyen ve ozan kantatore Francesco De Gregori'nin ilk dönem eserlerini konuk ettik Tabella'ya. Şimdi 1982 yılında yayınlanan Titanic albümünden bir balatla veda edelim ki bu albüm Corriere della Sera'nın son yıllarda yaptığı bir ankette 1975-2005 döneminin en iyi İtalyan LP'si ilan edilmişti. Ben Cansın Sayesen, Itabella'daydınız. Haftaya destek haftamız, bizi sakın unutmayın. Şimdi 2. Dünya Savaşı sırasında müttefik uçakları tarafından Roma'daki bir mahallede bombalanan sivilleri anlatan San Lorenzo ile kapatıyoruz. Hoşça kalın. Cadevano le bombe come neve, il 19 luglio a San Lorenzo, sconquassato il verano dopo il bombardamento, tornano a galla i morti e sono più di 100. Cadevano le bombe a San Lorenzo e un uomo stava a guardare la sua mano viste dal Vaticano, sembravano scintille. L'uomo raccoglie la sua mano, i morti sono mille. Un giorno credi questa guerra finirà, ritornerà la pace ed il burro abbonderà e andremo a pranzo la domenica fuori porta a Cinecittà. Oggi pietà è morta, ma un bel giorno rinascerà e poi qualcuno farà qualcosa, magari si sposerà. Papa la mattina da San Pietro uscì tutto da solo fra la gente, in mezzo a San Lorenzo spalancò le ali, sembrava proprio un angelo con gli occhiali. Un giorno credi questa guerra finirà, ritornerà la pace e il burro, abbonderà e andremo a pranzo la domenica fuori porta a Cinecittà. Oggi pietà è morta, un bel giorno rinascerà e poi qualcuno farà qualcosa, magari si sposerà.